Abbiamo ricordato nel corso del volume i numerosi artisti che si sono avvicendati a Bologna al servizio di cardinali, nobili o per eseguire commesse per il comune stesso. Ma che dire delle rivoluzionarie artiste, donne, bolognesi del passato? Esse meritano senz'altro una menzione d'onore, non solo per il loro talento, ma anche per il coraggio nell'intraprendere una carriera, quella nelle arti figurative, per secoli riservata strettamente al genere maschile. Non è un caso, infatti, che di Elisabetta Sirani il conte Carlo Cesare Malvasia, che all'epoca stava scrivendo la biografia dei pittori bolognesi, di lei abbia affermato «dipinge da uomo», un modo di dire che venne ripreso da molti contemporanei della pittrice. Era consuetudine del tempo, infatti, mascolinizzare non solo il talento, ma anche il concetto di successo. Come dire, se è brava è perché dipinge come un uomo. E di successo, nella sua breve quanto folgorante carriera, Elisabetta Sirani ne ottenne davvero molto. Fin da giovanissima si affermò come una delle più brillanti pittrici della sua epoca, realizzando a soli 17 anni la sua prima opera pubblica, un battesimo di Cristo per la chiesa di San Girolamo. Tra le più significative eredi del classicismo barocco di Guido Reni, al punto che qualcuno sussurrava che lei ne fosse la reincarnazione, Elisabetta era una vera enfant prodige. Insomma, una virtuosa del pennello dal tratto estremamente espressivo, ammirata per la sua tecnica impeccabile quanto per la velocità di esecuzione. Si racconta infatti che fosse in grado di realizzare un ritratto in una sola seduta. C'è un aneddoto al riguardo. La straordinaria rapidità con cui eseguiva i dipinti portò alcuni a sospettare che si avvalesse di aiutanti nascosti. Elisabetta decise così di aprire la sua bottega ai visitatori, eseguendo delle sessioni di pittura in pubblico. Ben presto accorsero visitatori e curiosi da tutta Europa per vederla lavorare. Era tale la velocità e franchezza del suo pennello che la sembrava più leggiadramente scherzare che dipingere. «Io posso ben dire per verità», dice il Malvasia, «essermi trovato presente più volte che venutole qualche commissione di quadro, presa ben tosto la matita e giù postone speditamente in due segni su carta bianca il pensiero, intinto piccolo pennello in acquarella d'inchiostro ne faceva apparire ben tosto la spiritosa invenzione, che si poteva dire senza segni disegnata, ombrata ed insieme lumeggiata tutto in un tempo». Grazie alle capacità imprenditoriali del padre, pittore mediocre, fu tuttavia primo assistente proprio di Guido Reni, che di mestiere faceva il mercante d'arte, nel giro di poco tempo Elisabetta fu contesa dalle nobildonne bolognesi, che si davano battaglia per avere un suo ritratto o una Madonna da posizionare in una stanza del loro palazzo. Nel giro di pochi anni la sua fama era così grande da attirare l'attenzione della nobiltà di mezza Europa, ottenendo commesse, tra le altre, da parte della Gran Duchessa di Toscana Vittoria della Rovere o delle Duchesse di Parma, di Baviera o del Braunschweig. Le tematiche ricorrenti nei quadri di Elisabetta Sirani sono quelle religiose, tra le quali spiccano per lo più Madonne con Bambino, ma l'artista bolognese aveva una predilezione per i soggetti mitologici o biblici, amando raffigurare quelle che oggi definiremmo cattive ragazze, donne che rifiutavano il ruolo femminile imposto dalla società e si opponevano a tentativi di sottomissione, arrivando persino ad uccidere. Ne sono esempio Timoclea, che getta nel pozzo il soldato che l'ha violentata, Giuditta, che decapita Oloferne, Dalila, che taglia i capelli a Sansone e persino Cleopatra. Particolarmente suggestivo è il quadro in cui raffigura Porzia, che si ferisce alla coscia per dimostrare il suo coraggio al marito Bruto, oggi conservato presso la Miles and Ross Foundation a Houston, in Texas. La fascinazione degli americani nei confronti dell'artista bolognese è tale che recentemente lo United States Postal Service ha emesso un francobollo con la sua Madonna con Bambino, conservata a Washington, il primo in assoluto a raffigurare l'opera d'arte eseguita da una donna. Elisabetta Sirani si dedicò con passione anche a tematiche romantiche, come nel caso del Trionfo di Amore, oggi conservato in una collezione privata. Elisabetta fu una femminista ante litteram. Era una tale sostenitrice del talento femminile che arrivò ad aprire la prima Accademia Professionale d'Arte per Ragazze, inaugurando quel periodo d'oro della pittura al femminile bolognese del tardo Seicento. La quasi totalità delle sue allieve intraprese con successo una carriera nel settore artistico. Elisabetta Sirani morì prematuramente all'età di soli 27 anni, per le complicazioni di un'ulcera che le provocò un attacco di peritonite. All'epoca si rincorsero le voci di un avvelenamento, ma nessuno degli indagati, tra i quali figuravano il padre, un'allieva e la domestica di casa Sirani, vennero formalmente accusati. fu sepolta nella Cappella del Rosario della Basilica di San Domenico a Bologna, accanto a Guido Reni. Vita di Properzia.